Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con questo ciclo di conversazioni che tentano di attraversare quella porta drammatica e affascinante al tempo stesso che è l'esperienza della fine della vita, per spalancare questa porta appunto su un orizzonte di eternità. Siamo giunti proprio a toccare questo tema la volta scorsa, se ricordate cari amici, mettendo al cuore proprio della fede cristiana la resurrezione di Gesù. E ci dicevamo in fondo questo è il cuore della fede, come San Paolo ci esorta ad avere ben presente, perché se Cristo non fosse risorto, dice, la nostra fede sarebbe vana. Sarebbe vano credere in tutto quello che il Signore ci ha insegnato se poi questo insegnamento non dovesse essere altro che una morale buona per vivere in questo mondo. E guardate che questo, cari amici, non è un rischio così lontano dalla realtà, soprattutto oggigiorno, della fede cristiana per come viene vissuta. Quante volte capita di rischiare di ridurre a un moralismo intramondano, cioè puramente terreno, quello che è il cristianesimo. Quante volte sentiamo persone pur educate, ecco, da una certa cultura cattolica ai valori cosiddetti cristiani, parlare della fede come se fosse anzitutto una luce per orientare il cammino terreno, ma poi, ecco, utile a ben poco più e in realtà incapace di spalancarsi a quell'orizzonte escatologico ultimo che riguarda la vita dopo la morte. E allora sentiamo un po' così i conti che non tornano quando facciamo i conti con le grandi domande o le grandi ingiustizie, se vogliamo chiamarle così, la morte delle persone care, la sofferenza, la malattia, la vecchiaia, quei disastri a livello individuale oppure anche collettivo che spesso offuscano quella parvenza di bene che si vorrebbe vedere caratterizzare il cammino dell'umanità. Come si fanno a giustificare questi grandi interrogativi? Lo diciamo non una volta soltanto, ricordando e citando il filosofo francese Pascal, che nel 600 metteva in chiaro come l'unica alternativa per molti degli uomini dei suoi tempi, e ancor più oggi, aggiungo io, è quella del divertimento. Dinanzi ai grandi problemi, le grandi domande, quelle che mandano in crisi, quelle che lacerano, quelle che spingono a interrogarsi, l'unica soluzione sembra essere la fuga, il divertimento, la distrazione. E invece sappiamo che questa è semplicemente una miseria che si aggiunge alle fragilità della vita umana, a meno che non si prenda sul serio quello che Cristo promette all'uomo d'oggi. E allora comincio questa nostra trasmissione proprio cercando di collegare quella che è la resurrezione di Cristo alla prospettiva che questa risurrezione sia aperta, offerta, possibile per ogni altro uomo. Perché il vero punto è questo: non è soltanto un problema la resurrezione di Cristo, non basta esaurire tutte le domande possibili che si potrebbero fare su questo avvenimento della storia e della fede, ma anzitutto bisogna chiedersi che rapporto c'è tra la sua resurrezione e la mia. E se Paolo, l'Apostolo Paolo, afferma che se moriamo con lui nel battesimo, con lui anche risorgeremo, è perché questa è la vera ragione per cui mi interessa la resurrezione di Cristo. Non è come parlare di qualcosa di unico, di raro, di speciale, di curioso, che però non mi tocca. Se non mi tocca, anzi, non mi interessa per nulla. Allora verrebbe da chiedersi se un uomo contemporaneo che non abbia avuto la fortuna, la grazia di assistere alle apparizioni di Cristo risorto, può credere oggi a questa promessa. Quella che Gesù fa nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 11, versetto 25, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ed è una promessa che è preceduta dal titolo che ho scelto di dare a questa conversazione, Io sono la resurrezione e la vita. È un'affermazione molto forte. Gesù non si limita a dire io posso far risorgere un morto, perché questo vorrebbe dire posso far resuscitare qualcuno che è morto, ma poi dovrà morire di nuovo. Non si limita a dire io posso innestarti in una condizione di vita nuova. Qui non è un problema di quello che lui può fare, ma di ciò che è. Io sono la resurrezione. Qui mi viene in mente un parallelismo mariano, lo stile è un po' quello del Montfort, le cose che posso dire di Gesù. Ovviamente, secondo le debite proporzioni, le posso anche dire di Maria e viceversa. Allora, come posso dire di Gesù che non soltanto può far risorgere, ma lui è la resurrezione, Allora si può dire di Maria che non soltanto è stata concepita senza peccato originale, ma, come rivela nell'apparizione del 25 marzo 1858 a Bernadette a Lourdes, la Madonna è l'Immacolata Concezione, indica qualcosa di unico. Perché? Perché Cristo è la primizia della resurrezione, è il primogenito di molti fratelli, è il primo che risorge e permette agli uomini di partecipare di questo dono grandissimo. Ma come si può credere a questa promessa se non si è visto risorgere Cristo? E certo, per gli 11 che l'hanno visto il mattino di Pasqua, per le donne, per i discepoli, per 500 riuniti tutti in una volta sola, leggiamo anche così nella scrittura, che hanno visto il risorto, hanno mangiato con lui, lo hanno sentito parlare, lo hanno toccato. Per questi è facile credere alla resurrezione e anche credere alla promessa che essi stessi pure risorgeranno. Ma un uomo contemporaneo che non abbia avuto la grazia di una simile vicinanza potrebbe credere? È possibile cioè credere senza vedere? Ecco, il riferimento più immediato, per quanto riguarda la pagina della Sacra Scrittura, per questa domanda è quello dell'apostolo, Tommaso. Sappiamo bene l'episodio, ma voglio leggerlo perché, come sempre, la parola di Dio è viva, è efficace, scende nel profondo dello spirito. Capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 24 e 29. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. C'è stata una prima apparizione e Tommaso era assente. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Era evidente che già questi segni erano sufficienti a far riconoscere il Signore. Le ferite del costato, delle mani, dei piedi avrebbero indicato che era il crocifisso, colui che era morto, che era stato sepolto e che effettivamente era davvero risorto. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. È evidente che qui qualcosa di straordinario è già accaduto, perché Gesù arriva a porte chiuse, è come se potesse entrare senza nessun problema con la materia, la gravità, la consistenza dei corpi, pur possedendo un corpo glorificato, tanto che dice poi a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Quindi, come dire, entra a porte chiuse, però poi gli dice: toccami. Quindi è una materialità trasfigurata di questo corpo risorto totalmente nuova. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Questo è uno degli atti di fede più belli. È paradossale perché noi pensiamo a San Tommaso come l'incredulo per antonomasia e poi in realtà dobbiamo pensare che lui è credente più di altri, perché mio Signore e mio Dio è veramente un'espressione, un riconoscimento di fede grandissimo. Non è detto che gli apostoli fossero arrivati a quel punto. Non è detto che non potessero ancora dubitare. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Ecco, questo è un episodio molto conosciuto, ma lo ripeto, credo che spesso si pone più in rilievo l'incredulità di Tommaso, che non si fida della testimonianza degli altri apostoli, no? A riprova che oggi o 2000 anni fa le cose stavano comunque nella stessa maniera, cioè non bastava essere contemporanei di Gesù per credere che fosse risorto, bisognava vedere. E invece, piuttosto che mettere in rilievo questa incredulità, bisogna riflettere su un altro elemento più positivo. È quel riferimento che già vi ho proposto, l'atto di fede che Tommaso pronuncia quando dice: mio Signore e mio Dio. Praticamente Tommaso si rende conto che Gesù non è semplicemente resuscitato, come invece succede a Lazzaro, andate a vedere nel capitolo 11, sempre del Vangelo secondo Giovanni, ma è risorto, è entrato in una vita nuova, un corpo glorificato, proprio come aveva promesso, dunque è Dio. Cioè, un uomo che promette di risorgere e lo fa davvero non può che essere Dio. Lazzaro non è risorto, è stato resuscitato. Ci sono quindi due differenze fondamentali, una totale passività e dall'altra un ritorno a condizioni di vita uguali alle precedenti. E E poi Gesù aggiunge quelle parole che ben sappiamo, no? A conclusione di questo episodio, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Cosa significa questa frase? Che sono beati quei sempliciotti che credono a qualunque cosa si dica loro? O che sono fortunati quelli che non si fanno tante domande e si bevono qualunque diceria gli si propini? O che sono felici quelli che si fidano in modo cieco e irrazionale? Beati quelli che anche se non vedono, credono a qualunque cosa gli si dica. No, non è questo il senso delle parole di Gesù, amici. Bisogna partire da un altro brano di Vangelo e per esaminare bene l'attendibilità delle promesse. Dobbiamo cercare di capire che cosa intendesse dire Gesù. È fondamentale perché si tratta di capire se quello che stava dicendo si riferiva al vedere semplicemente il corpo o a vedere il risorto. E se entriamo nella profondità, ecco, di questo brano, ci rendiamo conto che dobbiamo andare oltre. Se stiamo a vedere che cosa ha visto Tommaso? Tommaso ha visto che Gesù gli si è presentato dinanzi. Poteva benissimo dire: ho visto un uomo resuscitato. E invece che cosa ha creduto? Ha creduto che quell'uomo resuscitato che gli stava davanti era veramente Dio. Ecco perché Gesù gli dice: beato te perché vedendo hai creduto. Ma noi normalmente quando usiamo il verbo vedere non lo colleghiamo al termine credere. Non diciamo che vedo e quindi credo. Diciamo quando vedo una cosa so che c'è. In questo momento io sto seguendo il mio testo, Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca, e non è che dico credo di avere un libro davanti agli occhi, so che ce l'ho perché lo vedo. Quando diciamo credere ci riferiamo a qualcosa che abbiamo visto, a qualcosa che non è certo, a qualcosa che tratteniamo nella memoria, a qualcosa che esula dalla nostra semplice percezione sensoriale. E perché allora Gesù dice a Tommaso, tu hai visto e hai creduto? Perché quello che vede non è quello che poi crede. Tommaso vede un Gesù risuscitato, potremmo dire così, vede che Gesù è vivo, ma non si ferma a dire credo che tu sia vivo, era evidente che era vivo, la toccava, lo vedeva, crede che quel Gesù che gli sta davanti vivo è Dio, ecco l'atto di fede. E allora Gesù dice, ma beati quelli che anche se non mi hanno visto risorto, crederanno per la testimonianza che gli è tramandata dalla tradizione della Chiesa che io sono il Signore. Ma prendiamo un altro episodio, no? Sempre dal Vangelo, questa volta al capitolo 19, secondo Matteo. Questa volta protagonista è Pietro, no? Allora Pietro, prendendo la parola, disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne otterremo? Qui segue l'episodio del giovane ricco. Sapete che il giovane ricco era andato via triste perché aveva molte ricchezze e non avrebbe potuto, come si può dire, lasciarle senza soffrire questo abbandono, questo distacco dalle sue false certezze. E allora a un certo punto Gesù dice: guardate che è veramente difficile che un ricco vada in paradiso, no? E a un certo punto Pietro dice: aspetta un po', che qui vediamo se facciamo luce sulla nostra situazione. Noi Gesù l'abbiamo seguito e dice: ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Cosa dunque ne otterremo? E Gesù disse loro: in verità vi dico, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Ecco, questo è un brano bellissimo. E Pietro prende la parola, parla per primo, colui che sarà papa della Chiesa di Cristo. Ha un carattere irruento, impulsivo, però è capace di un amore grandissimo a Gesù, no? Che lo porterà poi fino al martirio. Gesù ha appena ricordato che è molto difficile che un ricco vada in paradiso e Pietro, proprio sapendo che loro hanno lasciato tutto, gli chiede che cosa capiterà invece a quelli che hanno saputo distaccarsi da queste ricchezze. E Gesù assicura la vita eterna per quanti lo seguono. Ora, se ci fermassimo qui, a questa promessa di vita eterna per chi lascia tutto, l'obiezione più immediata sarebbe abbastanza intuibile. È facile promettere la vita eterna, visto che non puoi sapere se questa promessa è attendibile finché non muori, perché soltanto dopo la morte verifichi se veramente c'è la vita eterna che ti è stata promessa. Ma come ci si può fidare di una promessa così? Come si può testare la credibilità di simili parole? Ecco, io ricordo quando avevo 15 anni e questa era la mia obiezione a questa pagina evangelica. Io mi stavo interrogando quel tempo tanto sulla fede e capivo che la vita eterna era un bel premio per chi avesse vissuto la vita cristiana, ma soprattutto pensavo che senza vita eterna non avesse neanche senso questa nostra vita, perché le fatiche, le sofferenze, le tribolazioni del quotidiano che tutti abbiamo ben presenti, non mi pareva valessero la pena se poi tutto dovesse finire sottoterra o sotto una tomba. E allora mi rendevo conto che bisognava decidersi a credere davvero. Ma come potevo fidarmi di quella promessa di vita eterna? Come potevo fidarmi che fosse vero quando Gesù dice: Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore non morirà, ma vivrà in eterno? O chi mi segue avrà la vita eterna? Come potevo fidarmi di questa promessa prima della morte, non potendola appunto verificare prima di esaurire tutta la mia vita? E rammento che un giorno discutevo con alcuni amici dell'oratorio proprio su questo punto, quando si è avvicinato Dario, che oggi è il papà della mia figlioccia di battesimo, Carlotta. Siamo diventati molto, molto amici, sono ormai più di 30 anni, ecco, di conoscenza, di condivisione di fede che ci accomunano. E all'epoca, 3-4 anni più grande di me, mi chiese, no, se conoscessi il Vangelo. Mi ricordo, erano sulla porta dell'oratorio. Certo, no? Risposi, visto che lo stavo proprio leggendo e rileggendo anche con una certa ansia, proprio per rispondere a tutte le domande sulla fede che mi facevo in quel tempo, no? Sulla vita, sulla morte. E lui mi incalzavano: Ma e non hai visto quali sono le promesse di Gesù per chi lo segue? E certo che ho visto la promessa, quella che mi stava più a cuore, no? Gli dissi: La vita eterna. Non solo, mi disse, Gesù promette la vita eterna, è vero, ma anche il centuplo già in questa vita. Ecco, quello per me è stato uno dei momenti decisivi, intanto per accorgermi che non conoscevo il Vangelo come invece credevo o presumevo. E questo è come dire un ammonimento che faccio a me stesso ancora oggi, tutti i giorni, ma che condivido anche con voi, cari amici. Non date mai per scontato di conoscere il Vangelo. Quella pagina di Vangelo che sentite rileggere per l'ennesima volta la domenica in chiesa, non pensate di sapere già come va a finire. Non intendo dire che si può cambiare il finale, non c'è nessun effetto sorpresa. La sorpresa non è nel Vangelo, nella pagina scritta, la sorpresa è in te. Perché se quella è una parola viva, cambia qualcosa in te ogni volta che l'ascolti. E io poi non mi ero reso conto che la parte decisiva della promessa di Gesù conteneva come un criterio di verifica della stessa promessa, il centuplo. Per me quello è stato un momento decisivo della mia esistenza di uomo e di cristiano. È per quello che oggi sono ancora contento di ridire grazie proprio a Dario per questo grande regalo che mi ha fatto quando all'epoca eravamo ragazzi e dicendomi, no, quella parola di verità che ha avuto per me conseguenze grandissime. Perché? Perché mi ha rivelato una risposta, che stavo cercando con fatica. E che non ero riuscito fino a quel momento a vedere, cioè potevo finalmente verificare se la promessa di Gesù, la promessa della vita eterna, era vera. Come potevo verificarla? Con quel centuplo che avrei potuto godere già in questa vita. Cioè, se avessi sperimentato che dando il mio tempo, la mia vita a Gesù, ad esempio, il Signore stesso avrebbe moltiplicato la durata delle mie giornate, permettendomi di assolvere a ogni impegno e dovere nella scuola, nel lavoro, o se avessi visto che rinunciando a poche e scelte amicizie per aprirmi a tutti, avrei trovato 100 volte gli amici di prima. Se avessi toccato con mano che per ogni gesto di generosità la provvidenza divina avrebbe sostenuto ogni bisogno della mia esistenza. Se avessi accolto un bisognoso in casa, trovando a mia volta ospitalità in una moltitudine di luoghi o di persone, se avessi cercato di donare un po' di gioia ogni giorno al mio prossimo per ricevere pace e letizia profonde, ancor maggiori io stesso, sempre in ogni occasione, bene, se fosse accaduto tutto questo, allora avrei dovuto riconoscere, per onestà intellettuale, che Gesù è uno che mantiene le promesse. E a me è accaduto esattamente così. Devo dire che da quando cerco con la grazia di Dio di vivere una vita cristiana, di vivere secondo quello che Gesù chiede nel Vangelo, io vivo continuamente questo centuplo nella mia vita. E lo vedo anche nelle persone che seguo, che conosco, con cui condivido un cammino. Mi viene in mente da citare, no? Insomma, l'esperienza che vedo anche in questa piccola comunità che seguo da poco, delle sorelline del cuore eucaristico di Gesù, di queste giovani in discernimento vocazionale che conducono una vita in comune di preghiera, di studio, perché sono ancora studentesse, e vedo che le difficoltà non sono mancate, no? Penso, ad esempio, a un caso particolare e con alcune proposte. Non è che sempre la famiglia accetta di buon grado che si decida di intraprendere un cammino del genere. Sembra una scelta, quasi fuori dal mondo. Andare in un convento, vivere di preghiera, di provvidenza e intanto cercare anche di concludere bene i propri studi superiori. Però io mi accorgo che se provi a dare tutto a Gesù, se provi a fidarti, come nel caso di queste ragazze, può capitarti magari di dire: rischio di perdere, no? Mia sorella o mio fratello, perché magari non mi comprendono e mi criticano, e poi però entrando in comunità ti trovi magari tre sorelle e ne hai lasciata una, e aprendoti ad altre persone che fanno questo cammino, ti accorgi che improvvisamente hai 100 sorelle e non più soltanto una. Ecco, questa esperienza del centuplo, così vera, così concreta, è ciò che caratterizza la, direi, verificabilità della promessa di Gesù. Io posso ancora aggiungere, questa è una cosa, ecco così, ancora più personale forse, rispetto al rapporto con il denaro, quando penso che c'è stato un tempo in cui avevo due lavori e mezzo probabilmente, perché da una parte facevo l'editor in PM Mondadori, dall'altra facevo l'insegnante, poi capitava sempre qualche collaborazione, qualche lavoro di scrittura, di redazione, ed evidentemente avevo delle entrate, delle disponibilità, ma ero sempre preoccupato, sempre in ansia che i soldi non potessero bastare per le cose anche buone da fare. Quando ho cominciato a fidarmi di Gesù e a mettere nelle sue mani quello che possedevo, mi sono accorto che non c'è un solo istante che la provvidenza non risponda. Ho proprio avuto l'esperienza anche nei giorni scorsi, adesso racconto questa forse banalità, ma i segni grandi avvengono attraverso episodi semplici. Stavo accompagnando una persona per fare una visita medica. E trovandosi nel bisogno, così mi sono trovato a dire: beh, ti do una mano, no? Pago la visita, prendo qualche medicina. Insomma, sono subito partiti un po' di soldi e pensavo che avrei voluto comprare un piccolo elettrodomestico per questa comunità di cui vi parlavo prima, delle sorelline del cuore eucaristico di Gesù, e dico: beh, quei soldi mi avrebbero fatto comodo, no? Perché erano forse metà della spesa che pensavo di dover affrontare per quell'elettrodomestico, che era un freezer per la cucina. E mentre sto pensando a questa cosa, ma così con serenità, però contento di quello che ho fatto, suona al telefono un amico che mi dice: ma mi pareva che tu cercassi un freezer per la cucina, ne ho uno, te lo porto io. Ecco, uno dice: ma queste cose te le inventi per raccontare cose simpatiche durante la trasmissione. In realtà no, è proprio la cronaca, io dico, del mio quotidiano, perché continuamente sperimento questo centuplo, ma poi non vi sto a dire per il tempo. Chi mi conosce sa che sono abbastanza oberato di impegni, ormai ho silenziato il telefono da anni perché tanto non riesco più a stare dietro alle chiamate, ai messaggi. Però che cosa capita? Che quando mi sento strappare via dai miei impegni, dai miei programmi, e ci tengo a programmare bene ogni ora, no? Ora per ora della giornata, cosa faccio, come mi organizzo per non perdere tempo e riuscire a sbrigare, no? Più incombenze possibili, ma quando vengo strappato via perché c'è un'emergenza, devi correre da uno, preoccuparti di un bisogno di un altro, sempre mi fido del buon Dio, che poi mi ridona tempo in aggiunta. O mi fa fare le cose più veloci o mi dà più ore per svolgere i lavori che devo fare. Fatto sta che questo centuplo per me è l'esperienza proprio del quotidiano. Ecco, è un po' come se, ecco, posso fare un esempio che ho fatto qualche tempo fa in una mia classe, no? Banale come esempio, ma forse proprio perché un po' scolastico aiuta, no? Ho detto ai miei studenti: ma immaginate che un giorno io possa arrivare qua in classe e vi dica, vi darò 10.000 euro a fine anno scolastico, no? E questa frase ovviamente suscita i commenti più diversi, ma quando chiedo ai ragazzi se sarebbero disposti a credere a una simile promessa, la maggior parte di loro giustamente mi dice: Prof, non si offenda, ma come potremmo crederle? Cioè, così dal nulla ti darò 10.000 euro a fine anno scolastico. Giusto, ribatto io. Ma se mentre ti faccio questa promessa mi impegnassi a darti inoltre 100 euro ogni settimana, e di settimana in settimana mantenessi la promessa, ma questo non renderebbe molto più plausibile il credere che manterrò anche la promessa dei 10.000 euro alla fine della scuola? Al che riconoscono tutti che effettivamente sarebbe più che ragionevole credere. Magari non essere assolutamente certi, ma credere sì. Ecco, e questa è la stessa cosa che può accadere anche rispetto al centuplo che è promesso da Gesù. Se questo centuplo incominci a viverlo, puoi davvero credere che Gesù manterrà tutta la promessa e dopo la tua vita terrena ti donerà anche la vita eterna. E parlare di questa eternità, cari amici, credere, perché guardate che questo è il punto decisivo. Quando qualcuno vi obietta, ma tanto nessuno è mai tornato indietro, ma tanto è questione di fede, come dire, qualcosa di irrazionale, di cieco, perché ormai abbiamo talmente paura delle obiezioni del mondo che neanche noi sappiamo più che cos'è la fede. Neanche noi sappiamo più che cos'è la ragione, cosa vuol dire esistere, cosa vuol dire dimostrare, cosa vuol dire conoscere. E se è vero, come dice Pascal, devo citarlo, è la seconda volta questa sera, ma è davvero un filosofo tanto caro al mio percorso e alla cristianità, ecco, in quanto tale, se ha ragione Pascal, la natura della ragione è riconoscere che c'è un'infinità di cose che la sorpassano. Allora mi viene da dire, probabilmente il vero conoscere non è soltanto quello della scienza o della chimica. Allora uno potrebbe anche cominciare a dire, guarda, che in realtà credere alla vita eterna non è un atto fideistico, irrazionale, cieco, un atto di volontà, una scelta opzionale, è semplicemente la conseguenza più ragionevole dell'aver verificato che tutte le altre promesse che Gesù ha fatto sono vere. Ma prendete anche le promesse che oggi ci arrivano attraverso i messaggi di Medjugorje. Quando la regina della pace ci esorta alla preghiera, poi ci dice: soltanto col cuore aperto alla preghiera troverete la pace. Quando dice: vi porto a mio figlio, lui è la vostra pace. Ma non è forse vero questo? Come faccio a credere che Gesù sarà il mio paradiso nell'eternità? Perché già adesso sperimento che in comunione con lui comincio a vivere quella profondità di pace nel cuore che mi fa dire è proprio vero. Se è vera questa prima promessa, posso credere che sarà vera anche la seconda. Se è vero quello che comincio a sperimentare in questa vita, posso credere che sia vero pure quello che mi viene prospettato per la vita dopo la morte. Però, appunto, parlando di resurrezione, che è un po' il tema di questa nostra puntata, dobbiamo spiegare quanto prima ho appena accennato, cioè la differenza che c'è tra risorgere e resuscitare. Quando si pensa a un risuscitato d'eccellenza, questo ovviamente è Lazzaro, di cui parla ancora il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 11. Lazzaro era il fratello di Marta e di Maria. E i tre erano amici di Gesù. Gesù si reca da queste per consolarla della scomparsa del fratello, del quale pure era un grande amico. Questo è un episodio molto particolare perché se leggete il capitolo, la sua integralità è molto, molto strano, perché figuratevi che quando dicono a Gesù: guarda che il tuo amico Lazzaro è malato, lui si turbò molto, disse: Lazzaro è malato, e rimase lì dov'era. Che è un po' strano, perché se il tuo miglior amico, sapendo che tu sei malato, non si muove da casa sua per venire a trovarti, incominci a dubitare giustamente della sua amicizia. Ma Gesù dice anche: ma questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. E quindi in realtà sta dicendo ai suoi: guardate che se io aspetto è perché devo farvi vedere qualcosa di grande. Lazzaro muore e Gesù va da Marta e da Maria. Maria dunque, leggo dal versetto 32 del capitolo 11 di Giovanni: Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Questo è bello perché anche Marta era andata da Gesù, ma non si era ancora gettata ai suoi piedi. Maria, che è quella Maria di Magdala, la peccatrice liberata dai sette demoni, io in questo seguo un po' la lettura di Sant'Agostino, in realtà Maria ha ricevuto un miracolo grandissimo, cioè Maria è stata già resuscitata, se vogliamo, perché era posseduta da questi sette demoni, Gesù l'ha liberata. E quindi quando Marta, che va per prima da Gesù e gli dice anche lei: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E poi Gesù dice: ma io sono la resurrezione e la vita, ma tu credi in questo? E lei dice subito: credo. Ma come poteva credere così fortemente? Non aveva mai visto Gesù risuscitare un morto, verrebbe da dire. In realtà, se si pensa che Marta aveva già visto Gesù risuscitare la sorella Maria, dice: uno che è capace di liberare dai demoni, da sette demoni, mia sorella, potrà senz'altro risuscitare anche Lazzaro. Quindi questa è la prima fede che mostra Marta. Quando poi arriva Maria, che conosce la potenza di Gesù perché l'ha liberata dal demonio. E se lui scaccia i demoni col dito di Dio, allora, come diceva Gesù, è veramente giunto il regno di Dio. E infatti Maria si getta ai piedi di Gesù. Si getta ai suoi piedi perché lo riconosce come Signore. E infatti dice: Signore, Kyrios, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Ecco, è molto bello perché Gesù si turba, si commuove, scoppia in pianto, è un crescendo di emozioni. Mi ha sempre colpito molto leggere questi riferimenti, anzitutto per la profonda umanità di Gesù che emerge da essi. Molte volte pensiamo che il Signore abbia quasi scherzato, pur affrontando la passione e la morte in croce, perché in fondo diciamo è il figlio di Dio, no? Quindi la sua divinità avrebbe fagocitato la sua umanità, non ci sarebbe stata fatica, non ci sarebbe stato un vero dolore, non ci sarebbe stata una vera angoscia, niente di più falso. Gesù ha condiviso in tutto la nostra umanità. Leggete l'inno cristologico del secondo capitolo della lettera ai Filippesi di San Paolo e vedete che a parte il peccato Gesù ha condiviso in tutto la nostra vita, compresa anche la morte, fino alla morte di croce. Possiamo dire che questo turbamento rivela come Gesù partecipa del dolore dell'uomo. E questo lo dico anche per te che sei in ascolto in questo momento e hai avuto ultimamente il dubbio che Gesù non ti ascolti, che non partecipi alle tue sofferenze. Per te che di fronte alle tribolazioni che stai affrontando in questo periodo non facile della tua vita, credi a volte che Gesù si volti dall'altra parte. A volte sei tentato di pensare che il Signore non guardi più giù, che si sia dimenticato di te. Dinanzi a certe sofferenze, quando siamo nel pianto, siamo a volte tentati di credere che Gesù, il Padre, lo Spirito Santo raggiungano quella divina indifferenza che i greci pensavano prerogativa degli dèi. Gli dèi così perfetti, diceva Aristotele, non possono certo pensare all'uomo che è imperfetto, pensano a se stessi, non si curano degli uomini. E così pure diceva Epicuro, per confortare coloro che pensassero magari di temere l'intervento degli dèi nella loro vita, no? Magari dèi capricciosi, come pensavano con la loro rappresentazione antropomorfa i greci dell'antichità, gli dèi omerici per intendersi. Niente di tutto questo, diceva Epicuro, in fondo gli dèi sono talmente perfetti che a voi uomini imperfetti non penserebbero mai. E invece Gesù, che è il Signore, si coinvolge con le vicende dell'uomo fino in fondo. E non soltanto è arrivato ad affrontare l'esperienza limite che è quella della morte sulla sua pelle, vincendola con la sua morte stessa, ma arriva a piangere, turbarsi, commuoversi per la morte di Lazzaro. Questa reazione porta commenti diversi. Alcuni dissero: costui che ha aperto, scusate, dissero allora i giudei: vedi come lo amava. Quindi alcuni notano che effettivamente lo amava, ma alcuni invece dissero: costui che ha aperto gli occhi al cieco, ma non poteva anche far sì che questi non morisse. Ecco, vedete, qualcuno nota l'amore di Gesù per Lazzaro, adesso poi vedremo anche bene di che tipo di amore si tratta, e altri invece dicono subito: beh, ma se aveva aperto gli occhi al cieco non poteva intervenire prima. Accidenti, anche questa è una tentazione, cari amici, perché quante volte vorremmo insegnare il mestiere al Signore e dirgli come fare i miracoli, quando, quali e perché, come se potessimo noi vedere le cose meglio di Dio. E qui l'accusa è chiaramente di coloro che non hanno tanto a cuore la sorte di Lazzaro quanto il voler mettere in discussione quel Gesù che diceva di essere Dio. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. E disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore perché è di 4 giorni. È una indicazione importante questa, perché all'epoca si credeva che un'anima, l'anima del morto, potesse ancora gravitare intorno alla salma per circa 3 giorni. Quindi dire è già lì da 4 giorni vuol dire è proprio morto, morto, non c'è più speranza, non c'è più traccia di vita, neanche la sua anima, pur staccata dal corpo, è rimasta nei paraggi. Ma le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende, il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, questo brano famosissimo, famosissimo, ha una conclusione, o meglio, un appendice che spesso non si legge, perché non è in questo capitolo, ma in quello successivo. Ed è un appendice importante perché conferma come Lazzaro sia resuscitato, non sia risorto. Cioè, resuscitare vuol dire tornare in vita. Vuol dire riprendere le funzioni vitali di base che si erano arrestate in maniera naturalmente irreversibile e tornare invece a vivere. Questo però non vuol dire che Lazzaro non è più mortale, anzi, tanto che al capitolo 12 di Giovanni, versetti 9 e 10, leggiamo che i sommi sacerdoti, invidiosi della fama crescente di Gesù, pensano proprio di eliminare anche il resuscitato. Intanto la gran folla di giudei, leggiamo, venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Cioè, Lazzaro diventava un po' uno spot vivente della divinità di Gesù, perché era colui che Gesù aveva risuscitato ed era una cosa grande. Oh beh, certo, aprire gli occhi ai ciechi, far udire i sordi, ma immaginate. A quel punto i sommi sacerdoti deliberarono di uccidere anche Lazzaro, cioè l'invidia era tale che l'orgoglio, ecco, proprio accecato dall'invidia, dalla gelosia, porta a questa estrema stupidità, perché abbiate pazienza, ma se il vostro peggior nemico resuscita la propria nonna, io penso che ciascuno di voi direbbe: vado a fare pace e ti chiedo resuscita anche la mia. Cioè, mettiamo pure da parte i rancori, ma vediamo di sfruttare questa capacità, questa potenza di resurrezione. Ecco, neanche questo ragionamento di pura e bieca convenienza serve per spingere i sommi sacerdoti a dire: forse ci conviene capire meglio costui chi sia. No, di fronte a una cosa così grande come Lazzaro che ritorna in vita, i sommi sacerdoti dicono: eliminiamolo perché è la prova che Gesù effettivamente lo ha resuscitato, ed è evidente che se volevano ucciderlo è perché vedevano e sapevano bene che era ancora mortale. Nel caso di Gesù, invece, bisogna dire che risorge, perché parlare di resurrezione di Gesù e non semplicemente di un Gesù resuscitato significa che entra in una condizione nuova. Non è un tornare indietro. Non è un tornare alla vita precedente, ma un andare verso una vita nuova destinata a non finire mai. L'uomo che resuscita morirà di nuovo. Lazzaro sarebbe morto di nuovo. Gesù risorto, no. È una vita destinata a non finire mai in cui l'anima si unirà nuovamente al corpo, ma questo corpo è glorificato, trasfigurato e reso perfetto. Questa è la differenza fondamentale che voglio far emergere, scegliendo proprio di diversificare i termini impiegati. Chi resuscita può ancora morire, mentre chi risorge come Gesù la domenica di Pasqua, oppure noi alla resurrezione finale, alla parusia, quando il Signore tornerà nella gloria, chi risorge è destinato a non morire più. Poi più avanti vedremo anche in questi corpi glorificati quali caratteristiche si portino con sé. E Qui mi preme dire ancora, ecco, una cosa sul fatto del risuscitare ed essere poi, come si può dire, ancora aperti alla possibilità naturale della morte. Ricordo un episodio della vita di Don Bosco che mi ha sempre molto colpito, lo cito a braccio, quindi sicuramente in maniera imperfetta, ma ricordo di questo Don Bosco chiamato al capezzale di un giovane dell'oratorio che era ormai in fin di vita. E quando arriva, c'erano i parenti, gli amici, è già morto ed è morto da pochissimo. A quel punto Don Bosco si avvicina, se non ricordo male, fa uscire la maggior parte delle persone presenti e che cosa fa? Lo richiama e lo richiama alla vita. E questo ragazzo, chiamato per nome, si sveglia, risuscita e Don Bosco lo può confessare. Perché? Perché era morto senza confessione. E una volta che è confessato, dopo poco muore di nuovo. Cioè, questo per capire come si resuscita e si muore di nuovo e come la cosa più importante sia non tanto vivere quanto essere in grazia di Dio, come soltanto una buona confessione può dare modo, ecco, di trovarcisi. Voglio ritornare, avviandoci alla conclusione del tempo a nostra disposizione, io desidero ritornare su un punto importante di questo brano di Lazzaro. Mi rendo conto che è un brano che per molti forse sembra quasi non dire più nulla, perché uno dice, ma in realtà se dovessimo guardare le quante volte l'abbiamo già letto, abbiamo già, sì, tutto vero, tante volte l'abbiamo visto e sentito e letto e quant'altro, però in realtà se ci stiamo davanti con un po' di sincerità, un po' di cuore, forse dice anche delle cose nuove. Io provo a dirvi una cosa nuova, che potrebbe essere questa, ma perché Gesù piange dinanzi a Lazzaro? Perché si turba così profondamente? Non ci sono altri passi del Vangelo in cui si raccontino emozioni così forti. Beh, guardate, uno potrebbe dire, erano talmente amici, ma in realtà Gesù, non so, posso dire che amava Giovanni, l'apostolo, più di ogni altro, ma non si dice che Gesù abbia pianto per Giovanni. Sicuramente Gesù aveva un legame particolare con Pietro, perché lo ha scelto come primo capo della Chiesa, primo Papa. Eppure, quando c'è il rinnegamento di Pietro, è Pietro che piange amaramente, non è Gesù che piange, magari dispiaciuto per la caduta dell'apostolo Pietro. Qui invece piange, perché? Ecco, io mi do questa risposta. Che cosa stava veramente a cuore a Gesù? Il fatto di avere Lazzaro presente nella vita terrena o non piuttosto di avere un'eternità di presenza? È evidente che se il paradiso è stare con Gesù, se il paradiso, come insegna l'episodio del buon ladrone, è la comunione profonda con Gesù, per Lazzaro l'unico motivo di tristezza era non essere con Gesù. E quando Lazzaro muore, il paradiso non ha ancora aperto le porte. Il paradiso è ancora chiuso perché Gesù non è ancora sceso agli inferi a chiamare dal limbo dei patriarchi i giusti che aspettavano di entrare nella comunione con la Santissima Trinità, nella gloria dei beati, nella felicità eterna piena, no? La gioia piena di cui parla Gesù nell'ultima cena. Non erano ancora arrivati lì. E allora è come se, ma questo vi dico la mia interpretazione, Gesù dicesse: io piango perché se tu adesso muori, tu non sarai più con me. Finché io non sarò risorto, aprirò le porte del paradiso. Allora adesso io ti resuscito perché tu possa ancora stare con me, perché diversamente saresti in un luogo di felicità naturale, ma non ancora in paradiso con me. E questo pensiero mi è venuto quando, anni fa, a distanza di poco tempo dalla morte di mio fratello gemello Gianluca, il 22 marzo del 1997, morto in un incidente di moto, ricordo che mia mamma era venuta proprio a chiedermi: no, ma perché Gesù non resuscita anche Gianluca come Lazzaro? Che è una domanda lecita, che è una domanda che io immagino molti di voi, cari amici, si saranno fatti, magari non avendo il coraggio di porla a qualcuno, anche pensando ai propri cari, persi per le ragioni più diverse. Se Gesù ha risuscitato Lazzaro, potrebbe anche risuscitare questa persona che mi è cara, perché non lo fa? E a mia mamma ricordo che in quel momento, in quella circostanza, ho risposto: perché vedi, mamma, Gesù adesso ha già aperto le porte del paradiso. E se Gianluca, come io credo, si è salvato, e sappiamo che aveva una vita cristiana, si accostava ai sacramenti, abbiamo fatto dire le messe gregoriane, e se Gesù lo ha accolto con sé, che motivo ci sarebbe di volerlo richiamare in questa vita, privandolo di questa pienezza di comunione? E che motivo ci sarebbe di pensare che Gesù lo vuole richiamare a questa vita, visto che già ce l'ha con sé in pienezza? Ecco, io penso che questo sia un pensiero, cari amici, che dobbiamo fare nostro, ma concretamente, cioè pensare che la pienezza di comunione, di amore col Signore che i nostri cari vivono, o potranno vivere tra poco, in questo momento è la realtà più importante. Spiega perché il Signore non doni miracoli di resurrezione che possono toccare le persone che più ci stanno a cuore. Ecco, io mi fermo qui, cari amici, facciamo una breve pausa musicale, poi ci ritroviamo con le vostre domande che, come sempre, vi prego siano brevi e in tema con quello che ho cercato di presentare. A tra poco. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, Buonasera. mi chiamo Giovanni e chiamo da Verona. Benvenuto. Grazie intanto per la catechesi che ha fatto, sempre molto puntuale e ricca anche. Ringraziamo il Signore per il dono che le ha dato. E Grazie a te. niente, volevo solo porre una piccola riflessione, cerco di fare il più veloce possibile visto l'orario, su tre punti. Uno, sul Sant'Tommaso. Che non crede finché non tocca, e poche volte si pone l'accento su una cosa, ossia che tutti gli altri possono toccare e vedere Gesù, perché lui stesso dice: venite, mettete qui le vostre mani, toccatemi, vedete che sono io, datemi da mangiare. E quindi hanno una concretezza davanti agli occhi che Tommaso giustamente non ha e dice: perché voi avete visto e io non ho potuto vedere. Però è proprio questo è il punto secondo me più bello, che Gesù, in quanto Dio, sapeva che Tommaso non era presente e quindi uno potrebbe dire, ma come Gesù non poteva aspettare che ci fosse Tommaso? Io penso proprio di no, perché è proprio lì la cosa bella, che grazie a questo Tommaso noi oggi, a distanza di 2000 passa anni, perché Dio è il Signore del tempo, siamo beati perché crediamo pur non avendo visto. E quindi quel credere che va oltre la concretezza della carne, e che ci pone Certo. appunto in una dimensione ben diversa. Poi un altro velocemente, un piccolo aneddoto sul discorso del 100 volte di più. Ho conosciuto una persona che per aiutare un familiare ha dovuto spogliarsi diciamo, di alcuni beni proprio economici e questa situazione, guarda caso, era capitata in un frangente in cui questa persona, guarda caso, quell'anno aveva economicamente lavorando guadagnato di più. A conti fatti, quella quantità in più di soldi corrispondeva all'esatta cifra che quella persona doveva, che l'altra persona, diciamo, nel bisogno doveva ricevere. E questa persona che aiutava, proprio ecco, il moltiplicare i beni, perché ha anteposto Dio, e quindi il bene che Dio fa tramite anche noi, al denaro o alle sue cose, poi ne ha trovato un tornaconto di aiuto presso altri familiari per essere aiutato in un'altra maniera, perché appunto in quel momento lì anche questa persona si è dovuta spogliare di questi beni economici. Non so se mi sia riuscito a far Sì. capire. E concludo l'aneddoto su Lazzaro, appunto, dove Gesù stesso, infatti in coerenza con quello che ha detto anche lei, parla appunto dice agli apostoli: Lazzaro dorme, perché appunto una cosa che ho sempre pensato e avevo detto anche tempo fa, parlando con lei, che prima di Gesù non esiste in realtà una morte vera, perché la vera morte è quella dell'anima, quando l'anima finisce appunto all'inferno. E quindi è una forma di dormienza grazie poi alla risurrezione di Cristo che diventa appunto o salvezza eterna o dannazione eterna per quelli che non riescono. Grazie e mi scuso se mi sono dilungato. Buona serata. Grazie Giovanni per questi interventi. Invece, per nulla, sei stato molto, molto conciso, molto ecco, radiofonico da questo punto di vista e hai toccato punti importanti. E quello che mi piace di più rimarcare è proprio l'accento che hai posto sulla provvidenza relativamente a questo centuplo, che è uno sperimentare non soltanto come Gesù mantenga le sue promesse, ma come questo centuplo vissuto nel concreto del quotidiano sia proprio un anticipo di paradiso, perché se andiamo poi a vedere, tutto ciò di cui ci si spoglia viene ricevuto, ma non come nella visione veterotestamentaria, Giobbe riceve 7 volte tanto, ma sempre gli stessi beni materiali, se vogliamo dire così. Qui invece c'è un innalzamento di valore, di livello, che già è un anticipo di quel paradiso che poi si godrà con la vita eterna. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Buonasera. mi sente? Sono Benissimo. Stefania. Sì, senta, io volevo solo fare una domanda, no? Visto che si è parlato anche dei messaggi di Medjugorje, si sta parlando anche di provvidenza. Ecco, come mai non si parla anche dei migranti che muoiono a confine, proprio sui Balcani, quindi nella terra, diciamo, della Bosnia e Erzegovina, anche perché siamo al confine, ecco, perché non c'è mai una parola su questi bambini che veramente, e su queste famiglie che sembra appunto di rivedere Gesù, Giuseppe e Maria in fuga verso la salvezza, verso una terra sicura. Perché, mi chiedo, e tra le altre cose, appunto, si parla di provvidenza, e come si fa a non avere uno sguardo nei confronti di quello che sta accadendo? E come si fa a pensare alla provvidenza? Grazie per questo intervento, Stefania, ma in realtà non credo che non se ne parli mai, proprio perché sono notizie in realtà che sentiamo continuamente. Penso che i notiziari le pongano continuamente alla nostra attenzione e sono tante le persone, non soltanto in Bosnia, che stanno in questo momento soffrendo alla ricerca di condizioni di vita più dignitose. È anche importante ricordare, questo amo dirlo con insomma una certa chiarezza, che a volte si accostano Gesù, Giuseppe e Maria come Sacra Famiglia in fuga verso l'Egitto a qualunque situazione di migranti, quando in realtà sappiamo che fuggivano perché perseguitati per motivi religiosi, non semplicemente alla ricerca di un mondo migliore o di una sistemazione economica, ecco, che potesse magari favorire una vita più dignitosa. Io credo che anche per queste persone che sono in questo momento alla ricerca di una vita migliore si può parlare di provvidenza in maniera molto concreta, cioè sapendo che spesso siamo noi la provvidenza degli altri. Quando preghiamo perché, ad esempio, stiamo benedicendo la mensa e mi trovo con ragazzi più giovani o bambini e sento la preghiera, noi preghiamo ringraziando per il cibo e diciamo: Signore, danne anche a chi non ne ha. Sì, ma il Signore non è che fa piovere pagnotte dal cielo, ma in realtà chiede di essere tu la sua misericordia. Ed è proprio come ha fatto la Madonna, che proprio in Bosnia e Erzegovina appare, quando chiede infaticabilmente a noi che siamo i suoi cari figli di essere le sue mani tese, no? Verso tutti quelli che non fanno ancora l'esperienza dell'amore di Dio. Quindi penso che in realtà ci sia un'attenzione anche verso questa drammatica correalità di questi migranti, oggi in Bosnia, ma anche in tante altre parti del mondo, e credo che proprio accogliendo anche questi aspetti di provvidenza di cui tanto ci parla il Vangelo e a cui tanto ci esorta la Regina della Pace, che possiamo fare nel nostro piccolo qualcosa anche per loro. Pronto? Pronto, buonasera, sono Cristina, telefono dalla provincia di Milano. Benvenuta. La ringrazio intanto per il suo intervento e per tutte le buone riflessioni che sa sempre suscitare. La mia è una domanda un po' banale, forse non ho compreso bene. Ho apprezzato la distinzione che lei ha fatto tra risorgere e risuscitare e mi è venuto subito il pensiero pensando. Come lei ha detto, risuscitare, a risvegliare, più associato a Lazzaro, alla figura di Lazzaro, come come metterlo insieme come verità di fede, con il credo, dove si dice risuscitò il terzo giorno. Certo, grazie, grazie per questa domanda, non è affatto banale, è proprio un fatto di traduzione, e come si è cambiato il Padre Nostro recentemente perché si è pensato a un certo punto che indurre in tentazione potesse avere qualche problema di interpretazione o di ricezione, così all'inizio si utilizzò il termine resuscitò perché si poneva l'accento sul fatto che era Dio Padre ad avere resuscitato il Figlio. Ovviamente Gesù è Dio tanto quanto il Padre, quindi era un'azione che veniva, come si può dire, posta in essere come relazione dal Padre, ma di fatto agita dal Figlio stesso. Per evitare che ci potesse essere un fraintendimento e per sottolineare la condizione di novità di vita a cui ho fatto riferimento anche prima, si è deciso di utilizzare spesso il termine risorgere. Chiedo scusa. Allora è stato chiaro che potendo utilizzare due termini diversi nella lingua italiana, si parla di un andare verso una condizione nuova, ritornare verso la vita naturale per Lazzaro. Poi alcune preghiere che fanno ormai parte della tradizione relativamente recente delle preghiere in italiano rimangono così. Anche se magari una volta che viene spiegato il significato si possono usare anche le parole precedentemente impiegate, però con una nuova accezione. Nelle prossime puntate vedremo, cari amici, che cosa si intende con resurrezione dei corpi, vedremo quali sono le caratteristiche dei corpi risorti, qualcosa abbiamo già accennato in questa conversazione quando dicevamo che Gesù appare a porte chiuse. Apparve in mezzo a loro, no? Quando appare agli undici, e possiamo dire che questa apparizione fa capire come il corpo di Gesù è in una situazione nuova. Le porte erano chiuse per paura dei giudei e Gesù riesce a presentarsi in mezzo a loro. È affascinante, lo vedremo, interrogarsi su ciò che non è più il corpo risorto e ciò che è ancora. Perché, ad esempio, come proprio piccolo anticipo, posso dire che il fatto che Gesù si presenti nella sua materialità non solo lasciandosi toccare, ma anche mangiando e bevendo con loro, deve farci pensare, perché significa che tante caratteristiche di questa nostra vita presente non sono soltanto metafora, ma anche forse segno di quella che sarà la nostra vita futura. Ecco, io concluderei qui, visto che il tempo a nostra disposizione sta terminando. Lo faccio anzitutto ringraziando tutti coloro che, intervenendo direttamente, scusate, con le loro domande, permettono di arricchire questa trasmissione, ma anche ringrazio quanti con le loro email, con i diversi messaggi, commenti, mi aiutano a arricchire con riferimenti concreti queste nostre conversazioni. E poi concludo volendo, ecco, proprio invitare tutti quanti alla preghiera, soprattutto per coloro che, non avendo ancora fede nella resurrezione, vivono in maniera disperante certe situazioni di solitudine, di malattia, di abbandono. E come sempre vi invito a pregare per il Santo Padre, per la Chiesa tutta in questo momento di prova, perché si continui a essere in comunione con Cristo, saldi nella fede. Augurando a tutti una santa notte, assicurando la mia preghiera, vi rimando all'appuntamento al prossimo primo sabato del mese. Una preghiera per tutti da Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.